comincia la gloria della scienza perfetta che sta dietro un bacio stampato a memoria. A questo mio sottile sapore di afferrare l'incanto di quel meccanismo che innesca il tuo cuore. E dimmi tu, hai fame tu? La sete di conoscere il trucco della chimica audace che c'è nei tuoi occhi mi lascia di stucco. Aggiusto per sapere cos'è l'algoritmo che non mi permette di fare mai a meno di te. La matematica di un sentimento è una formula da decifrare, un conto da fare e rifare. La matematica di un sentimento è un codice da rivelare, la parola chiave che mi nascondi tu. Radicale bellezza, alchimia che sovverti la camera oscura della mia amarezza. E dimmi cosa resta di me nel teorema di Eterno che è scritto un bel giorno d'estate alle tre. La matematica di un sentimento è una pagina da interpretare, un'ipotesi da dimostrare. La matematica di un sentimento è la somma al di là del totale, la parola chiave che mi nascondi tu che sei. La legge sia di causa che di effetto è un punto fermo dell'universo imperfetto. Il sentimento è una formula da decifrare, un conto da fare e rifare. La matematica del sentimento è un codice da rivelare, la parola chiave che mi nascondi tu.